Sì, a zampe dei lumaconi. Ah. Ah, va bene, va bene, grazie. Lui ha mangiato, sai cosa mangiava? Boh. Ho già fatto ciò patato. Cazzo che ho mangiato, ragazzi. Quella da molto che non la mangio, vedi. No, un po' di lumacconi abbiamo. Poi lumacchine, carne da fare arrosto, vabbè, azzurri, pollame, quelle robe lì. Sì, se fa appetito bisogna mangiare. Sì, un po' di tutto, un po' della cosa, un po' dell'altra. E gli dà ragione. Allora, ce ne è rimasto un altro po'. Salute, e ne abbiamo pure. Non è solo lumacche, sono anche lumacconi in mezzo abbiamo messo. Abbiamo preso lì quella fruttifendola, vicino a Cesaraccio, come veniva con quello, quella di cugnetto, ma maduro me. Catta, la gioca magari non è tanto grassa grassa, però con quello è maduro, bello, Sì, li ho presi stamattina lì, sì, ne aveva l'ultimo chilo, c'aveva. Già sono grandi, sì, già lo so. Li stiamo pulendo adesso, facendoli sbavvare. E li ha puliti, li ha bolliti, perché mi ha pigliato un bel bongo. E adesso li mette in freezer, capito? Li sta lasciando raffreddare, per sorpresi. Li mette una busta e ci mette in freezer, capito? E così anche alle lumache. Cazzo, sì, devo fare questa cosa, apri un bozzetto e li cucineremo. Anche con le rane si fa così, sì. E allora, cosa mi racconti? Ma via, meno male c'è un po' di freschetto adesso. Si sentiva tuonare addirittura. Da te? Che si sentiva tuonare poco fa. Addirittura, non l'ho sentito, già che sono un socio. Ah, ma speriamo che lui anzi l'ha appoggiato, speriamo che non sappia le carecce, perché anzi che c'è feo. Sì, il telefono non lo sento, no, la radio lo sento, non molto, però lo sento. La televisione lo vedevo, non la sento per niente, cazzo, anzi quanto è brutto. Beh, certo. È brutto, lo so, quando succede a me, ma io lo risolvo subito, so, come ti ho spiegato. E non mi sono più andato dall'Otorino. Una volta faccio così, me l'avevo detto. Mio fratello faceva quello lì, con la siringa. Ma io ho provato, e io ho i passaggi stretti, capito? No, non scende niente, non scende proprio in fondo, non scende, capito? Varie volte io sono andato e per 10 giorni mettevo le gocce, però a volare a casa, ma la medicina non l'ha messa, tu c'è che l'ha messa, io non le vedo, c'è sempre lo stesso, ti puoi immaginare, non scende lì, non scende. Allora ha preso un tipo di medicina, me l'ha iniettata, dice adesso vado pure, glielo chiamo io, dopo 10 minuti mi chiama, ha preso e me l'ha tolto il tappo, cazzo. Che ti puoi immaginare, cazzo. È brutto, a me te l'ho detto, la seconda volta sono andato, ma ha detto fai così e così. È sempre funzionato, proprio perché c'è il buco piccolo, tu che devi usare quel sistema che ti ho detto, perché con la pressione tutto va via. Casino, aspetta, invece dall'altra parte più libera, dove ho avuto l'otite a sinistra, capito? Lì c'ho avuto l'otite, per cui lì riesce a scendere fino in fondo le gocce, capito? E le faccio anche a pulire, mentre l'altra parte c'è un passaggio stretto, va stretto, e non scende, la medicina non ci scende. Ecco, faccio da me. Se evidentemente la volta e lui ha preso quella siringa a punta e è sceso, e me l'ha strappata. Vabbè, così la medicina è anche più densa, capito? Non è come l'acqua. Guarda che se te lo faccio io ti si pulisce in 448. E io a volte anche 15 volte lo faccio, secondo come è chiuso. Non fa lui, non fa così, no, a me non va bene perché, ripeto, per il passaggio magari in largo va benissimo, ma uno che c'è passaggi stretti non scende nemmeno l'acqua, si può immaginare. Cosa ne sai, Nubighere? Se parla meglio saltato là, tu. Cosa ne sai, no? Cosa ne sai, Nubighere? Senta, ho toccato e c'eravano Luca e Monte con un altro anello. Io stavo i torrugetti a quello computer, ma mi sono inciuffato e gli trovavo tutto. C'era anche Giuseppe, il Leoncino. Per carità, yes, speriamo stanotte che se ne può cantare tutti, non ci riesce a dormire. Luca siamo ricca, ma stasera sembra più freschetto, per cui riusciamo a riposare bene stanotte, dai, speriamo bene. Io il macello è. Ma tu pure, vai, allora vai, lo ventilatore da soffitto, vai, lo climatizzatore, io se avevo un climatizzatore l'avevo acceso, magari quei 3-4 gradi in meno, giusto per stare bene, ma me l'avrei acceso, e se no, pa' cosa dire il buio? Stavolta già l'ho acceso, stavolta si fa caldo, infatti l'ho già programmato perché era con l'aria calda, adesso l'ho messa l'aria fredda, per cui se fa caldo me l'accendo, sì, certo, il condensatore, perché la fretta sì, non c'è subito, ma è poca, mentre invece con il condensatore, sì, certo. L'accendo magari un'oretta prima con i carni, la faccio raffreddare bene, dopo magari il corico, a bui, senza di notte, c'è caldo, l'accendo dopo, lo metto al minimo. Ma così è peggio, devi mettere deumidificatore, devi mettere soprattutto, è peggio così, perché poi quando ti curi che c'è lo sbalzo di corrente, di freddo, dal freddo al caldo ti va a zimare, invece tu tienilo a una temperatura costante, intanto lui si spegne e si accende da solo, non è che rimane acceso, e lo tieni quei 3-4 gradi in meno magari rispetto a quelli che ci sono, e stai bene tutta la notte. Non è che se tu ne urti quando ti cocchi, dopo di un'ora vai a raggaggio, è normale, perché i muri sono caldi, Gianmari. Se lo raffreddi bene, almeno per 2-3 ore riesci a riposare bene, capito? Magari dopo comincia di nuovo il caldo, quello è vero. Certo, ma fino adesso ho acceso solo la ventola e basta, ma ieri notte la ventola era fino alle 4 accesa, dalle 11. Puoi immaginare, no, sì, un po' in giro sì, però era da morire, c'era troppo caldo, capito? Allora l'ho spento, sono stato un po' e c'era caldo, allora ho riacceso di nuovo, ma era troppo forte il caldo, ecco, troppo, anche se si è fatto quell'acquazzone, no? Ha fatto una bella scarica di acqua, non ho rinfrescato niente, caldo c'era, anzi forse era peggio. Più caldo ha fatto dopo, sì. Allora, a me qua rinfresca verso le 4 del mattino, allora rinfresca bene, ti devi burdappà, dalle 4 in poi, capito? No, si è avuto il condizionatore, l'avevi acceso, io ce l'ho, ma è nell'andito, capito? Così che lo accendo quando ci sono gli incendi, che vai sul gas che proprio non puoi stare, allora lo accendo. Ripeto, stavolta l'accendo sì, che appena qui lo accendo, se non riesci a drombiare inutile, e così ha drombito, deve fare un'ora e mezzo, dai 4 mesi in poi ha drombito, se no si può lasciare, mi sono bisogno 3-4 volte, ma si rinfrascavo i bracci, la faccia, l'ugabo, gatta, gatta per un cazzo da morire, cazzo, Io se l'avrei avuto in camera come ce l'hai tu me l'avevi acceso. Poca, basso, però tutta la notte acceso. E quando non si può, cioè per dormire male, visto che c'è la comodità, va si è acceso tutta la notte, quei 3-4 gradi in meno e dormi bene, capito? Va bene Gianmari, ti devo lasciare che stanno salendo gli ospiti, dai, ci sentiamo domani. D'accordo allora, va bene. A quell'ora, ok. Ciao, allora, mi raccomando, cerca di arrossire molto e mangiare poco. ciao, ciao. Ciao, ci proverò, ciao, ciao, ciao. Ehi,